أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض. Buonasera, siete collegate come di consueto con la nuova trasmissione di Andala, Notizie dal Mondo e Storie di Internazionalismo Proletario. Come al solito trasmettiamo dal centro sociale Jan Assen qui a Salerno, sono le 18.05, oggi è martedì 6 luglio. Davide, prima mi dicevi fuori onda che tra le varie notizie che daremo nel corso di questa puntata purtroppo hai un lungo elenco di nomi di prigionieri. Sì, buonasera a tutti e tutte. Sì, purtroppo in questo caso non si tratta di prigionieri fatti dall'esercito israeliano, bensì dell'autorità nazionale palestinese. In quanto dobbiamo partire dal presupposto delle scorse settimane, dall'uccisione di Nizar Banat, di cui vi abbiamo ampiamente parlato e documentato nelle settimane scorse, e da lì ci sono stati comunque numerose mobilitazioni. Una delle quali, l'ultima, è stata sabato e che è stata documentata da Michele Giorgio e che vedeva che è stata nella città di Ramallah proprio per protestare contro la repressione dell'autorità nazionale palestinese e contro questo potere oppressivo che fa il gioco esclusivo dell'occupante. E tra le testimonianze raccolte da Michele Giorgio sul suo articolo apparso sul Manifesto domenica, abbiamo anche quella di questa compagna che dice che l'ANP deve scegliere se stare dalla parte della resistenza o dalla parte dell'occupazione e deve decidere se è un regime creato per opprimere i palestinesi e per cooperare con Israele contro chi lotta per la libertà o se i suoi leader e i suoi uomini vogliono cambiare strada e stare dalla parte del popolo palestinese. Ci sono stati dei pestaggi, dei dimostranti, molestie inflitte alle donne da agenti dell'intelligence, quasi sempre in abiti civili. Questa volta abbiamo visto anche sono sorti posti di blocco all'ingresso di Ramallah con l'intento di impedire ai palestinesi provenienti da altre città di unirsi alle manifestazioni. Abbiamo visto anche i video di uomini incappucciati delle forze di intelligence dell'ANP e di Fatah che comunque controllavano le auto in ingresso di Ramallah. Inoltre le molestie nei confronti delle donne da parte delle forze di sicurezza e la diffusione di varie immagini sui social hanno scaricato una forte indignazione in Palestina e soprattutto l'episodio che è capitato nei confronti della giornalista Nayala Zaitanun che ha riferito che alla manifestazione del 26 giugno un poliziotto, suo virgolettato, l'ha minacciata di violentarla e di distruggerle la reputazione. Da allora la giornalista vive in uno stato di paura e il pestaggio subito ha lasciato segni ancora ben visibili sul suo corpo, in quanto non si sente al sicuro nemmeno a casa sua. Questo per dirvi come sono state represse le manifestazioni. Il lungo elenco di arresti a cui facevi tu giustamente Michele riferimento, vorrei partire da Mais Abu Ghosh, scusatemi per la pronuncia, questa studentessa palestinese dell'università di Bir Zeit e militante del polo studentesco progressista che poco tempo fa ha avuto anche una grande visibilità mediatica, forse ne avremmo anche parlato in qualche trasmissione, perché una volta uscita dalle carceri israeliane ha avuto il coraggio di raccontare le violenze e le torture a cui era stata sottoposta. Ebbene, ieri Mais è stata arrestata nuovamente. Questa volta però come vi dicevo in apertura, non è stato l'esercito israeliano, ma è stata arrestata dalle forze di sicurezza di Abu Mazen e dalla cosiddetta autorità nazionale palestinese. Quindi sta proseguendo questa campagna di arresti portata avanti dai servizi di sicurezza dell'ANP, e tra gli arrestati vi è anche, oltre a Mais, Abu Ghosh, studentessa del polo studentessa dell'Università di Beirut e del polo studentesco progressista, come dicevo prima, ci sono altri detenuti noti che sono stati arrestati: Amin Shiadeh, giornalista dell'emittente Al Arabi, Mais Abu Ghosh, studentessa, Khaled Al-Bwatalla, storico, uno degli storici, storico e intellettuale palestinese, Omar Rassaf, scrittore palestinese, Osama Bdeir, medico, Taysir Ali, militante politico e fratello di Abu Ali Mustafa, Haitham Shayag, militante politico ed ex prigioniero, Dalia Ayesh, avvocatessa di Avvocati per la Giustizia, Nadia Bash, architetta, Dima Min, dottoressa, Awsaf Saf, Shauta Asaf, Hind Shride, scrittrice, Alala Arrimawi, giornalista, Asma Audadalla, Jinin Muri, Yumana Al-Azza, Ismail Al-Fayez, Ubaya Abudi, Basel Muri, Yai Abu Arrob e Hadi Al-Tarsha, scusate la pronuncia. Inoltre il sindacato dei medici palestinesi ha, in un comunicato rilasciato questa sera, ha condannato l'arresto e la detenzione di un numero di medici per reati di opinioni. Questa è la situazione che si fa ogni giorno sempre più insopportabile nei territori, si fa più insopportabile non solo per l'occupazione ma soprattutto perché a questa si aggiunge la repressione da parte di quella borghesia palestinese che con Oslo ha fatto fortuna e che ora si vede mancare il terreno da sotto i piedi perché viene messa in discussione la sua stessa esistenza. Unarmed people with guns and drop bombs on moms right in front of their sons. So I import Israeli products, I would deport them. Killing the innocent, I will never support them. The Zionists and Jews are different types of people. The Jews ain't bad, but the Zionists are evil. Even the rabbis know the Zionists are crazy. We take life for granted, but they're killing newborn babies. Freedom won't be achieved until they feel the same pain. Palestinians shower tears pouring down like rain. Every word is a fact, not one was an opinion. When I say free Palestine, I'm talking for billions. Free Palestine and lay down your weapons. This is for the innocent souls that went to heaven. Cause what happened in America on 9/11 happens in Palestine 24/7. Sing it. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Israel is funded by many, including Obama. Then they say that the bigger threats came from Osama. That's not true. Most of that stuff is lies. They don't show how hundreds die overnight. Can you imagine if that was one of us? Houses, families, all blown down to dust. Many being kidnapped and virgins being raped. Many have been injured but none receive any aid. Is taking a life really worth it for just some land? Those who drink from Starbucks surely don't understand. More Israeli goods being sold means more weapons, more bullets that kill Palestinians every second. Freedom won't be achieved until they feel the same pain. Palestinian shower tears pouring down like rain. Every word is a fact, not one was an opinion. When I say free Palestine, I'm talking for billions. Free Palestine and lay down your weapons. This is for the innocent souls that went to heaven. Cause what happened in America on 9/11 happens in Palestine 24/7. Sing it. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free Palestine and lay down your weapons. This is for the innocent souls that went to heaven. Cause what happened in America on 9/11 happens in Palestine 24/7. Sing it. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Bene Davide, ritorniamo in onda e insieme alle notizie che riguardano la Palestina, purtroppo ancora una volta dobbiamo parlare dei coloni che purtroppo proprio questa mattina, cioè martedì 6 luglio, hanno praticamente invaso la moschea di Al-Aqsa nella Gerusalemme occupata. Non è la prima volta che succede, eppure però insomma ci giungono varie notizie, perché oltre a questa dei coloni eccetera, una cosa che a me mi ha abbastanza, come dire, fatto arrabbiare, no? È stata la notizia riferita da PIC che lunedì mattina le guardie israeliane hanno assaltato la sezione 21 del carcere di Ofer. All'interno della, dopo aver fatto irruzione nelle celle dei prigionieri palestinesi della sezione 21, appunto, li hanno trasferiti tutti all'interno della sezione 18. E ovviamente in seguito a questo ennesimo atto di violenza, il club dei prigionieri palestinesi ha dichiarato in una nota che dopo l'incursione la tensione è alta in tutte le sezioni della prigione, e ha sottolineato che la sezione 21 raggruppa 120 prigionieri palestinesi, che è la più grande di tutte le sezioni del carcere di Ofer. Quindi voglio dire, queste violenze sono state generalizzate praticamente a tutta la popolazione carceraria palestinese del carcere di Ofer. Day has come, as sure as the sun comes up, victory's out. There's a rumble in the ground, the war must come down. You can take our land, you can take our food, now we're standing here as one. There's a howling in the wind, there's a whisper in the trees. When a baby dies and a mother cries, we'll stand as one. We will die on our feet and live on our knees, standing proud, shout out our Palestinian for life. Ooh, so much history. Resistance in our veins, freedom in our hearts, cost us so much to our bones, freedom for life. Prima giustamente Michele parlavi dei coloni ovviamente dove c'è occupazione lì c'è resistenza e mi piaceva parlarvi di questo di queste attività, di queste notti di confusione che stanno portando avanti i palestinesi e le giovani palestinesi della città di Beita proprio contro i coloni con lo scopo di disturbare gli israeliani residenti nelle colonie illegali limitrofe e in modo da bloccare ed impedire future espansioni. Si fanno chiamare i guardiani delle montagne e le attività notturne fanno parte delle proteste in corso contro l'espansione pianificata delle colonie del monte Jabal Sabil, collocato nella periferia meridionale di Beita vicino Nablus. Sono organizzati in unità di confusione notturna locali, costituite da diverse subcomitati. Ci sono diverse unità a Beita e una di loro è l'unità dei pneumatici, che ha il compito di bruciare i pneumatici per creare confusione e asfissiare i soldati sionisti e i coloni codardi. Tra le varie unità notturne, oltre ai pneumatici, ci sono poi le unità, quelle delle luci laser, quella dei fuochi d'artificio, quella delle fionde, dove lo scopo è le fionde entrano però in azione quando ci sono scontri diretti. Poi c'è anche l'unità città di Molotov, che è l'ultima ad entrare in azione nel momento in cui quando c'è appunto la necessità e lo scontro si fa più cruento. Nei primi di maggio dei coloni israeliani hanno allestito appunto su questi monti alcuni insediamenti hanno allestito delle carovane in Jabal Sabil, e da lì è nato un movimento di protesta nel villaggio, e i soldati israeliani hanno cominciato comunque a reprimere le proteste più violentemente, e sono stati uccisi almeno 4 palestinesi, tra cui 2 minorenni. Ma il movimento di protesta ha continuato a crescere, inventando questi nuovi metodi per cacciare i coloni, per disturbarli, per dissuaderli. Il messaggio della gente di Beta è chiaro: quello che sta succedendo lì è un movimento popolare che unisce tutti, dalla sfera politica a quella sociale, e include tutte le famiglie del villaggio. Il monte Jabal ha un valore strategico perché potrebbe connettere le dozzine di colonie illegali sparse per l'area, e dal 1988 i residenti stanno combattendo contro l'espansionismo coloniale, che ha obiettivo appunto di occupare Jabal Sabi, è un altro monte. Un'eventuale occupazione spaccherebbe in due i quartieri della Cisgiordania, separando decine di città. E quindi sono state formate queste unità per abbattere le colonie e l'occupazione, e che difendono, come giustamente è possibile vedere anche su un filmato andato che potete trovare sulle pagine Instagram dei giovani palestinesi in Italia. Questi palestinesi combattono ovviamente la gente di Beta, combatte non solo per Beta ma per tutta la Palestina. Il messaggio è chiaro, e queste pratiche sono nate durante la hanno preso spunto appunto da Gaza, e se erano pratiche utilizzate appunto durante la grande marcia per il ritorno, pratiche non violente, visto che a molti così piacciono le pratiche non violente, che si inseriscono appunto in un contesto di resistenza. Quello che abbiamo sempre detto anche durante le nostre trasmissioni, cioè il discorso non è inneggiare o meno all'uso delle armi, il discorso è però non con una finta logica pacifista legittimare un discorso che preveda da parte di chi è occupato il doversi sottomettere all'occupante. Come diceva anche Mandela, è l'occupante che determina le modalità dello scontro, e quindi non possiamo non che rivendicare il diritto del popolo palestinese a resistere con ogni mezzo necessario. Di questo ne fa parte tanto la resistenza non violenta, tanto quella pacifica, tanto quella armata, che ha visto come è successo nella striscia di Gaza. Quindi è tutto, la resistenza è una, chi tenta invece di dividerla fa un gioco che non ci appartiene. We make a living, we may call it home but it isn't, living a life full of hate, don't you talk about forgiving. Quicksand on the beach, but still you got children playing by the sea. The language different, so they gone now. Always wishing it was me. Late nights and the trauma, eating away at my soul. Feeling guilty that I'm not there. Mama, I wanna go home. 4 Giottos on a drop top, we ain't got nowhere to go. IDs at the checkpoints, just so we know we below. Come take a trip to Jerusalem. You ain't see the people, they moving them. Reason they hate me, cause I'm always true with them. This shit got nothing to do with them. Used to have so many friends, now I'm losing them. I don't really give a fuck, cause I'm through with them. I met some real ones that gave me the tools to success, and you better believe it, I'm using them. Damn, yeah. This is all part of the plan. Gotta get rich and get back to the people who never gave up on staying in the land, yeah. Money is nothing to me, I just reinvest in my community, They bombing our cities and then they be saying it's all for security. Ce qui se passe autour, je m'en balais que j'entends rien. Seul dans mon monde, mais c'est là que je me sens bien. Un seul endroit où je veux être, c'est Gaza. Je l'ai vu de loin et elle m'a dit reviens. Girl, I love a little crazy. Pick you up in a Mercedes. I wanna take you to Jericho. Parents worry about it daily. Come take a trip to my city. The bullets be flying all over the place, but you're safe just as long as you with me. Already know that somebody gon' kill me. Don't listen to media telling you stories, just take it directly from me. More than a century since we've been free. Just come to my city and see for yourself how they live. 2020, they ain't with the vision. We gon' bring them together, and I don't really give a fuck if you Muslim or Christian, no time for division. My people in Gaza, y'all for Anjanine. The people of Nablus, Haifa, with Khalid. My people in Yemen, Syria, and Lebanon. We got your back cause we know how it feels. Là c'est qu'un rêve, mais je sais que je reviendrai. J'pense qu'en ma chair, ça m'a rien rapporté. J'sais que j'suis capable, faut juste me pousser. Là pour le coup, c'est maintenant ou jamais. Fuck these corrupt politicians who steal from their people and don't represent them. I said it. We fight for our rights and it's anti-Semitic. You think after being oppressed, they would get it, yeah. Fuck it, yeah. Bene Davide, ritorniamo in voce, in diretta. Io ho letto questa notizia, insomma, che mi ha fatto un po' storcere il naso, soprattutto rispetto alla questione tutta, diciamo, occidentale, ma probabilmente non solo, degli influencer che ormai tramite internet, eccetera, cercano appunto di influenzare non solo gli usi, i costumi, ma letteralmente proprio anche le modalità con cui noi, che purtroppo siamo tutti quanti inquadrati come consumatori, appunto agiamo in questo mondo. E proprio secondo questa logica, che ovviamente si sposa perfettamente con la logica coloniale sionista, vari influencer di Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Marocco hanno visitato Israele proprio per promuovere la normalizzazione, in modo tale appunto nei loro rispettivi paesi di provenienza da influenzare proprio in favore dell'occupazione in favore dell'occupazione israeliana. E quindi ecco che questa missione, diciamo, che si è recata in Israele, appunto ha fatto questo tour organizzato, che però in realtà non rappresenta nemmeno, come dire, la prima occasione di questo tipo, perché già 4 anni fa appunto c'è stata una, come dire, una marcia di questo tipo, sempre il tutto accamuffato, diciamo, da associazioni di beneficenza, no profit, di promozione culturale e turistica, ma che però in realtà hanno tutto come dire, l'interesse non solo a favorire l'appoggio appunto alla colonizzazione israeliana, ma addirittura alla normalizzazione, proprio perché, come diciamo spesso, in ogni caso all'interno del mondo arabo la solidarietà verso i fratelli e le sorelle palestinesi è molto sentita dai popoli. Il problema però è che sono i loro leader che non la vedono allo stesso modo. Davide, sempre per rimanere in tema di occupazione, prima mi parlavi di questa intervista. Penso che sia importante leggere integralmente un'intervista di Michele Giorgio, che possiamo trovare su Pagine Esteri. È importante più che altro per il dibattito, per quel che riguarda lo Stato unico per ebrei e palestinesi, anche perché Michele ha intervistato Avram Burg, che ha fatto una domanda precisa alla Corte Suprema israeliana. Infatti la sua domanda è quella che sulla sua carta d'identità venga designato di non essere designato come ebreo nel registro della popolazione israeliana. Infatti Avram Burg, che poi non è un personaggio di secondo piano, in quanto è stato presidente dell'agenzia ebraica, presidente della Knesset, capo del Stato ad interim di Israele, per anni dirigente del partito laburista, figlio di Joseph Burke, ministro ed esponente di punta dei religiosi nazionalisti, quindi ha dei titoli più da establishment sionista che d'altro. Però la sua domanda è intentata alla Corte Suprema, appunto volta ad togliere la dicitura ebreo nel registro della popolazione israeliana. Come egli stesso afferma: non smetterò mai di sentirmi un ebreo, ma non voglio più far parte della collettività ebraica in Israele, non voglio percepirmi come un privilegiato rispetto ai non ebrei, chiedo di essere un cittadino israeliano e basta. Ci spiega Burg, dandoci il benvenuto nella biblioteca, come prosegue poi l'articolo di Michele Giorgio. Quale sarà la decisione dei giudici? Ovviamente è difficile prevederlo. C'è da dire che 10 anni fa accolsero la richiesta dello scrittore Yoram Kanyuk, che non voleva essere più definito ebreo, ma un senza religione. Burg pone una questione diversa però rispetto allo scrittore, è più complessa, che riguarda appunto la sua nazionalità. Chiede che sia indicata come israeliana e non come ebraica. Rischia però un rifiuto perché in passato la Corte Suprema ha stabilito che nell'ordinamento del paese non esiste la nazionalità israeliana. Michele domanda a Burg: lei già da anni nei suoi libri, nelle conferenze, nei dibattiti ha preso le distanze dal sionismo, dell'idea di Israele come stato degli ebrei, dichiarandosi per l'inclusione e contro l'esclusione. Ora c'è questa decisione che in Israele definiscono estrema, considerando la sua storia. La risposta è frutto di un percorso personale, è una conseguenza della legge fondamentale approvata dalla Knesset nel 2018, che descrive Israele come stato della nazione ebraica e non di tutti i suoi cittadini. Legge che respingo totalmente dal primo all'ultimo articolo. Mio padre era un tedesco ebreo. Prima del nazismo e delle persecuzioni degli ebrei, questa definizione, tedesco ebreo, era del tutto ovvia e incomprensibile. Mio padre era un cittadino tedesco appartenente alla comunità ebraica e di religione ebraica. Come in Italia, un italiano è cittadino italiano e allo stesso tempo professa un credo, appartiene a un gruppo, a una minoranza. Si è uguali mantenendo la propria storia, la propria cultura, la propria fede. La situazione qui è diversa. L'idea di Israele come uno stato ebraico era già lì nel 1948 e la nazionalità ebraica fu introdotta nel registro della popolazione con ovvi riflessi nella vita reale, nella società. Allo stesso tempo i principi contenuti nella dichiarazione di indipendenza tutelavano i cittadini non ebrei. In sostanza, all'epoca si cercò di trovare una sorta di equilibrio tra uno stato che si proclamava genericamente ebraico e lo status dei non ebrei in esso, tra i tanti e i pochi, tra la maggioranza e la minoranza. Quell'equilibrio è stato spazzato via. Dalla legge Stato-Nazione, chiede Michele Giorgio, sì, le forze ultraconservatrici di destra, religiose fondamentaliste che dominano la Knesset, 2 anni fa hanno sancito in forma scritta che Israele appartiene soltanto alla nazione ebraica. Di conseguenza, nero su bianco, i non ebrei, gli arabi, sono discriminati in modo ufficiale, per legge, in uno Stato che sostiene di essere democratico. Per me è un punto di non ritorno. Sono ebreo, ma non voglio appartenere alla nazione ebraica di fronte a ciò che essa rappresenta in Israele. La mia coscienza non mi consente di essere classificato come membro di quella nazione, poiché implica il far parte di un gruppo speciale, mentre un non ebreo è a un livello inferiore. Se questa legge venisse approvata in un paese dove c'è una minoranza ebraica, sarebbe senza alcun dubbio definita antisemita. E visto che non sono in grado di far inserire la retromarcia al paese, allora mi deve essere garantito il diritto di non essere più parte della nazione ebraica in Israele. Però, anche prima della Knesset approvasse quella legge, le minoranze denunciavano di essere discriminate. Vero, risponde l'intervistato. Il sistema era ben lontano dalla perfezione, ma almeno lasciava immaginare la possibilità in un progresso nella giusta direzione. Ora invece, con la legge approvata nel 2018, la discriminazione è diventata parte integrante dell'ordinamento giuridico, è ufficiale, e questo sta bene a tantissime persone. Perciò Israele deve darsi al più presto una costituzione che affermi senza ambiguità uguali diritti e status a tutti i suoi cittadini. Domanda Michele Giorgio, ritiene che ciò possa avvenire in tempi ragionalmente brevi? Gli indizi dicono il contrario, eppure io sono ottimista, risponde l'intervistato. Anni fa, quando ponevo interrogativi su questi temi a me conoscenti o durante i dibattiti, mi consideravano un visionario, quasi un folle sganciato dalla realtà. Oggi non poche di quelle persone mi dicono che avevo ragione. Ciò che oggi appare impossibile diventerà realistico tra qualche anno. Lei rivolge la sua critica e le sue esortazioni agli ebrei e i palestinesi? Domanda Michele Giorgio. Il loro ruolo è fondamentale per il cambiamento di Israele. Devono agire. Cosa aspettano a partecipare alle elezioni a Gerusalemme, a riempire il consiglio comunale di loro rappresentanti, a candidarsi a sindaco? Da 53 anni lasciano all'occupante la facoltà di realizzare tutto ciò che desidera nella città. Mi piacerebbe vedere un sindaco palestinese alla guida di Gerusalemme e non avrei problemi a farmi governare da un primo ministro palestinese. Andiamo oltre, verso uno Stato in cui tutti sono uguali e nessuno vale più di un altro. La soluzione dei due stati è realizzabile. Ci vuole un unico stato per palestinesi ed ebrei. Anche ai milioni di palestinesi ancora sotto occupazione deve essere concesso come minimo il diritto di voto per il Parlamento israeliano. Questa è l'intervista di Michele Giorgio. Al di là di alcune conclusioni poi da parte dell'intervistato, è ovvio che pone degli interrogativi importanti, degli interrogativi fondamentali rispetto appunto all'essenza dello Stato ebraico, appunto uno Stato di apartheid, lo Stato solo degli ebrei. Ricordiamo anche quando tempi fa, 5-6 anni fa, quando si parlava di trattative, queste sempre feste fantomatiche trattative, dove il punto di non ritorno era proprio il riconoscimento di Israele quale Stato ebraico, che significa Stato solo per gli ebrei, mentre uno Stato solo per gli ebrei quindi significa l'apartheid, che quindi non ebrei, non palestinesi, sulla base di un principio religioso di discriminazione religiosa etnica, alcune persone hanno meno diritti di altre. E quindi questa è l'apartheid, non è stata accettata per il Sudafrica, non si capisce perché per la Palestina dovremmo accettarla, anzi di fronte a una legge del genere ci sarebbe dovuto essere diciamo un'opposizione internazionale dalle tante fantomatiche democrazie europee, in particolare visto che noi siamo i portavoci della libertà, della fraternità, dell'uguaglianza. Però di fronte a queste leggi, che sicuramente se approvata in Europa sarebbe stata antisemita, come detta dallo stesso intervistato, noi non si è mosso un dito e si continua a far finta di nulla, ma la realtà è sotto gli occhi di tutti. Yeah. Yeah, yeah. Y'all ready? Yeah. Palestine. Touchdown, Palestine. Y'all ready? Touchdown. Come on, boy, heat. Touchdown, let's go, ayy. Start the day feeling blessed, so I hit on my connect. Then I go and cut the check, book the jet. Then it's touchdown, Palestine. Summertime, bring the gang down, Palestine. Summertime, ayy. Start the day feeling blessed, so I hit on my connect. Then I go and cut the check, book the jet. Then it's touchdown, Palestine. Summertime, bring the gang down, Palestine. Summertime, ayy. Kiata B, they know I'm about it. Inspiring my people by the thousands. Red, white, black, green, all over my outfit. Repping Palestine. Palestine, more than DJ Khaled. I can never live to see him suffer. Shout out to Wahib, yeah, linking up my brothers. They cannot oppress us, yeah. We know that God's above them, yeah. Feeding all my people, all the children, man, we gonna. Yeah, music for humanity, we kill it with a message. Do it for the family, I'm still forever repping. Natajal al-Hariya, fi bilad al-Arabiya. Got the gang all with me and we rocking that kafiya on. Then we do the debke, let the drums bang. Then we hit up Al-Quds on a Friday. Black boy in Palestine, that's a blessed thing. I'ma bring the east side to the west. Start the day feeling blessed, so I hit on my connect. Then I go and cut the check, book the jet. Then it's touchdown, Palestine. Summertime, bring the gang down, Palestine. Summertime, ayy. Start the day feeling blessed, so I hit on my connect. Then I go and cut the check, book the jet. Then it's touchdown, Palestine. Summertime, bring the gang down, Palestine. Summertime, ayy. My people dying and the media is blocking us from seeing it and hearing it because they're bombarding us. Think about the refugees, that's what the departure does. We are targets and you are disregarding us. See, regardless of the pain, I'ma start it up. Me and J. Dean gon' start it up. I got all my Palestinians guarding us, and we only speak the truth, so pardon us. Got the kufiya on my headband, gotta represent, man. Hit up Times Square and we just dance. Hit the Depka for the culture like I'm supposed to. Reppin' red, white, black, green till the death. Man, the Isle Mayella, Rahin ala Ramallah. Tryna go to Palestine, you know who to call up. Chi-town, NY to the north side. If you ain't rocking with us, you on the wrong side. Start the day feeling blessed, so I hit on my connect. Then I go and cut the check, book the jet. Then it's touchdown, Palestine. Summertime, bring the gang down, Palestine. Summertime, yeah. Start the day feeling blessed, so I hit on my connect. Then I go and cut the check, book the jet. Then it's touchdown, Palestine. Summertime, bring the gang down, Palestine. Summertime, yeah. Y'all ain't ready for this time, yeah. Summertime, yeah. Summertime. Touchdown, Palestine. Hey, hey, hey. Touchdown, Palestine. Got the gang. Shot town. Touchdown, Palestine. Northside. Yeah. NY. Eccoci qui ritornati in voce, Davide, ci avviamo alla conclusione di quest'ultima puntata di Andala e quindi io volevo, visto che siamo in tema di interviste, volevo parlare di questa bellissima intervista fatta ad Aleida Guevara, la figlia di Ernesto Che Guevara, insomma, che appunto leggiamo questo articolo che è comparso sul Manifesto di oggi a firma di Claudia Fanti, in cui appunto già il titolo è abbastanza emblematico del significato poi delle parole della pediatra figlia del CE. L'alternativa cubana, welfare contro embargo e sanzioni. Quindi già vediamo, come dire, contrapposti da un lato l'embargo, quindi comunque la continua minaccia del capitalismo, dall'altro sentiamo parlare di welfare, che ormai è una cosa che in gran parte del mondo occidentale, insomma, ci sogniamo la notte. Comunque da questa intervista Aleida Guevara dice: da Biden ci aspettavamo dialogo, ma è arrivata altra pressione economica. La condanna del Parlamento UE è una mancanza di rispetto verso un popolo talmente solidale da aver inviato i propri medici in oltre 50 paesi, compresi quelli dell'Unione Europea. Aleida Guevara appunto si riferisce a quando oltre un anno fa, nel bel mezzo della pandemia da Covid SARS-19, Cuba appunto inviò centinaia di medici in tutto il mondo, anche qui in Italia, ed ecco, nonostante questo il Parlamento Europeo appunto si è espresso per rinnovare le sanzioni economiche, quindi l'embargo al popolo cubano. E quindi si dice Cuba come si dice dignità, ha affermato una volta il subcomandante Marcos, e di certo anche di fronte al Covid, sotto un embargo che non ha fatto che inasprirsi, l'isola è rimasta, al di là di errori e contraddizioni, una fonte di ispirazione per molti e un modello di solidarietà internazionale, con oltre 600.000 operatori sanitari inviati all'estero, più di tutta l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo giusto per come dire, centrare un punto cardine di questa intervista, che è esattamente quello che accennavo io prima. Ma che la rivoluzione cubana abbia tradotto in realtà la massima di José Martí, patria e umanità, è risultato ancor più evidente proprio in occasione della pandemia, quando le brigate mediche del contingente Henry Reeve, di cui ha potuto fare esperienza anche l'Italia appunto, non hanno esitato a combattere il Covid in oltre 50 nazioni del mondo. Ma Cuba, uno dei paesi con il più alto numero di medici rispetto alla popolazione, è un esempio anche per come ha affrontato la battaglia contro il virus all'interno dei confini nazionali, producendo almeno due vaccini pubblici, Soberana 2 e Abdala, quest'ultimo con un'efficacia superiore al 92%. Tutto ciò però non basta a risparmiare all'isola attacchi di ogni genere da parte dei suoi nemici, che si guardano bene da riconoscere con evidenza Eduardo Galeano, che Cuba è uno dei pochi paesi che non compete per la Coppa del Mondo dello Zerbino, e che ha generato la società latinoamericana meno ingiusta. Quindi, diciamo, parole abbastanza eloquenti. Di tutto questo, appunto, in questo interessante articolo se ne parla con la figlia di Ernesto Che Guevara, appunto Aleida Guevara, anch'essa medico, nel suo caso pediatra, che tra le altre cose ormai è al termine della sua visita in Italia, dove appunto è stata invitata dall'Associazione Nazionale di Amicizie Italia-Cuba. Sì, sì, esatto, Davide, ha fatto anche tappa qui a Salerno. E in questa intervista appunto a Aleida Guevara, in uno dei primi punti che affrontava, così come dicevamo all'inizio, appunto attacca frontalmente Biden, che si vuole mostrare al mondo come democratico e progressista, ma che in realtà non ha cancellato nessuna delle 240 misure contro Cuba adottate da Trump. E In pratica, vabbè, noi purtroppo ce l'aspettavamo, perché la domanda che pone ironicamente la Guevara è proprio questo: ve l'aspettavate? Sì, noi purtroppo sì, però purtroppo, però questa non era una cosa scontata. E per di più, un altro punto, come dicevamo prima, su cui la Guevara si è spesa energicamente, è proprio la condanna al Parlamento europeo, che ha appunto avallato delle violazioni dei diritti umani contro il popolo cubano, che invece in uno dei momenti di massimo bisogno per l'umanità si è speso senza alcun tipo di velleità di profitto. Infatti anche i vaccini, insomma, già è stato reso pubblico che saranno resi a disposizione dell'umanità senza depositarne i brevetti. Questo vorrà dire che chiunque ne potrà disporre, ovviamente per fini non commerciali, non lucrativi. Quindi ecco, in questa intervista la Guevara, tra le altre cose, pone pure un altro problema, cioè il suo sostegno per il premio Nobel per la pace proprio alla brigata medica cubana, e sarebbe il minimo, visto che appunto questa brigata non si è impegnata soltanto contro la pandemia da Covid, ma è impegnata da anni, è stata impegnata in Nicaragua e in Angola, così come la stessa Aleida Guevara, che appunto ha fatto parte di varie spedizioni. È chiaro che Davide, tutti questi punti che vengono messi in evidenza in questo interessante articolo, che lo ricordiamo è comparso oggi sul Manifesto, ci portano proprio con i piedi per terra rispetto anche che quello che, come dire, lo stato di ingiustizia che nel nostro nome viene posto nei confronti del popolo cubano, che è appunto è colui il quale soffre per quelli che sono le cosiddette sanzioni economiche, che poi altro non è che embargo in un'isola che però, lo ricordiamo, nonostante questo, nonostante l'embargo, è uno dei pochi paesi al mondo che ha eliminato completamente la denutrizione infantile. Al contrario invece di quello che avviene in Italia, questi sono organismi internazionali che appunto rendono pubblici questi studi, queste statistiche. E quindi diciamo che c'è poco da mettere in dubbio questi dati. Tra l'altro, l'ultimo di questi punti è proprio il fatto che ora Cuba però ha a disposizione i suoi vaccini, e questo ovviamente ha un enorme significato sul piano scientifico. E la domanda che ci si pone è: com'è possibile che un paese con tanti problemi economici ottenga ciò che altri molto più ricchi e potenti non sono riusciti ad avere? Cos'è che ci differenzia senza dubbio nel sistema sociale? Nel quadro del modello socialista, ciò che è importante è l'essere umano, la sicurezza, il suo benessere. Pertanto è fondamentale garantire a ogni individuo la possibilità di sviluppare le sue risorse intellettuali affinché sia più utile alla società, poiché l'embargo ci ha sempre colpiti nell'acquisizione di medicine. Abbiamo sempre cercato strade alternative, una delle quali è la prevenzione. È più facile prevenire una malattia che curarla. Da qui lo sviluppo scientifico che ci permette di proteggere il popolo. Sì, abbiamo dimostrato che si può vivere in un altro modo, non facendo commercio della vita, ma rispettandola. Vi invitiamo comunque a leggere questa interessantissima intervista di Aleida Guevara, ed ora, insomma, facciamo un'ultima pausa musicale prima dei saluti. Free Palestine. You know, Hamas, if you look at the history, you'll find out that Hamas was encouraged and really started by Israel, because they wanted Hamas to counteract Yasser Arafat. Then we have election, then Hamas becomes dominant, so we have to kill him. You know, it just doesn't make sense. Revolution, free the oppressed, and put the real criminals under arrest. From the north to the south, east to the west, put your fist up, time for protest. Free Palestine from the Zionist blitz. No war, it's a massacre, they murdering kids. Superpowers talk shit with their hands in their pockets, while Israel keep dropping prosperous rockets. But genocide, Hamas, they beat the blame, cause they fight for the freedom of their people and domain. All we see is terrorism, an excuse for the slain. So I say, motherfuck what your TV proclaim. Over 1,000 murdered civilians, but all that you hear is that they murdered some militants. Obama, don't speak, give your guns to billions. We know that your cats don't support the Palestinians. Come on now, everybody make a difference. This ain't a military war, they kill infants. No benevolence, no defense. Free Palestine from what the world commends. Come on now, everybody make a difference. This ain't a military war, they kill infants. No benevolence, no defense. Free Palestine from what the world commends. Middle East, rise up, we need to rebel. A wrong queen is being killed by the infidel. Living life in a cage, the war like a cell. And you question the rage, hate for Israel. Let's take it back to a well-known fact. When you encourage Hamas to rise against Arafat, radicalize a group to attack, and now you wanna wipe out a group that you back. Why don't they speak about that on the news? And the people can decide which side they wanna choose. But the media's control, and they mold all your views, and they won't accuse the Jews of human rights abuse. In 48 they made a false nation, the plantation began evacuation. For Palestine we have an obligation to do what we can to end the occupation. Que venimos a defender la revolución cubana, que venimos a defender la revolución cubana, porque es hermosa mela de la lucha americana, porque es hermosa mela de la lucha americana. Cuba sí, Cuba sí, Yanquis no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yanquis no. Con el yanqui las escuelas se convierten en cuartelas. Con el yanqui las escuelas se convierten en cuartelas. Pero en Cuba se acabaron esos malos procederes. Pero en Cuba se acabaron esos malos procederes. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, yanquis no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, yanquis no. Dicen los americanos que Fidel es comunista. Dicen los americanos que Fidel es comunista. Mano dicen que Batista mató 20,000 cubanos. Mano dicen que Batista mató 20,000 cubanos. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, yanquis no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, yanquis no. Las cosas de Fidel son cosas de buen marxista. Si las cosas de Fidel son cosas de buen marxista, que me ponga en la lista, que soy de acuerdo con él. Que me ponga en la lista, que soy de acuerdo con él. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, yanquis no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, yanquis no. Ecco Davide, mi sembrava quasi doveroso mettere insomma pure una canzone in tema per ricordare anche la rivoluzione cubana, visto che comunque siamo arrivati ormai in chiusura di puntata. Quindi Davide, io direi di darci appuntamento alla settimana prossima, sempre di martedì, sempre stessa ora alle 19, qui su www.radioasilo.it. Vi ricordo che potete ascoltare questa puntata in replica domani mattina alle 11 e a breve sul nostro canale Telegram pubblicheremo anche il podcast di questa puntata. Inoltre vi ricordiamo che per scriverci potete contattarci alla casella di posta elettronica radioasilo@protonmail.com oppure alla nostra pagina Facebook che è Collettivo Andala Salerno. Vi auguriamo una buona serata e ci diamo appuntamento alla settimana prossima. Buonasera a tutte e tutti.